Ma ti offre già una cifra del genere, vuol dire che sa quanto vale la radio. Io non capare il cazzo che ci domandano dell'elemosina, ma tennati. Io che vuole la roba gratis da ieri. Questa mattina ti cobbare trovato una bassona per un lavoro. E c'è da fare questo, vado da rubrico, vado da vizio, vado dall'altro. E dice, vediamo, dai, faccia per, a farlo gratis, boh, basta, non faccio più da nessuno gratis. Chi lo vuole lavoro paga, se no ci vado qua. No, io non ho di questi problemi, fra io non faccio lavoro a nessuno perché non sono all'altezza di poter fare niente a nessuno. Su questo non ci piove. Io nel mio lavoro per 40 anni ho fatto quello. Se qualcuno mi chiede qualche cortesia, andare anche a aiutarlo a fare roba idraulica, roba di quel genere lì, ci posso anche andare, ma io altre cose non le so fare, quindi non le faccio. Le antenne, le robe che mi so fare io, me le ho sempre fatte io, e non ho mai sbagliato, se te lo mandano da nessuno, tu lo sai, quindi mi dispiace, questo impianto l'avevo fatto veramente bene internamente e esternamente. Quello sì, mi dispiace, perché ci ho messo tanta passione, tanta voglia e ho speso anche dei quattrini. Però fra arrivato a un certo punto non è che puoi pensare solo alle radio, ci sono altre cose da pensare. Capito, c'è mia figlia, c'è un'attività, io ancora, bisogna andare a tre voci. Quindi mi voglio dedicare più un po' ad altre cose che stare attaccato alla radio. E perciò quello che non mi serve lo do, quello che mi piace tenere lo tengo. Questa è veramente un'occasione che non potevo perdere, perché mi ha dato una cifra fra allucinante. Infatti, va bene, quando è così va benissimo. Sì, ma in definitiva è fatto bene, guarda, avere tante radio, non usarle, si rovinano. Io c'avevo una bella stazione, ragazzo, me lo ricordo, ragazzo, delle radio, tutte nuove, tutte ordinate, fatte bene. Ma arrivato a questo punto, tanto non le vale più la candela qua, avere tanta cosa. Per la gente che c'è qua, io a volte non mi viene manco guarda nei traffici, vado dentro dei discorsi, ascolto un po', poi miglio il fuso tutto e mi seguo, non mi guardo la TV. Non c'è un dialogo, non c'è niente nelle radio, sempre andiamo verso, muovito, cioè, no, non c'è più quella passione di prima, capito cosa voglio dire? Non senti mai parlare qualcosa di elettronica, di antenne che vanno costruite, tutte cazzate. No, ma a prescindere da quello, fra, che può essere anche importante un QSO di come stai, come non stai, eccetera, eccetera. L'importante è fare radio, ma ci sono tantissime incomprensioni, tantissimi malumori, tantissime cose. La passione sta venendo un po' a mancare. Cioè, io stasera ero in quel Rix qua che stavo facendo appunto dei video delle cose, c'è Veraghito, sempre Bruscendi, Rottendi, Fendi Bernacchie. Ah, non ne vale più la pena, capito, investire soldi per le radio, a Fagosa. Oh, mi domani a Manzano, ma mi cercate a me. Se dovete fare la spesa, andate e fatevela, arrangetevi, perché mai salgo sul tetto e ne tolgo tutto quello che è rimasto, tutto. Lascio solo la manta, ma perché ci vuole 5 minuti a togliere, però gli altri, di polo soprattutto che è pesante, devo togliere i pali, conservarli, mansarda, mettere tutto a posto, piegare il di polo, ritirare sui cavi, capito? Lascio una cosa solo, e se poi, attenzione, se poi mi si girano le balle che vedo che devo togliere, cosa beh, se tolgo a Buganira all'ultimo momento, tiro sul cavo, mi fra, boh, ciao, arrivederci a tutti, me ne stacco anche la manta, adesso vediamo, ma io questa settimana, massimo l'altra, devo fare completamente pulizia, smontare il lutto e prepararmi già tutto, iniziare a portarci tutto in campagna, perché se no poi mi rimane tutto in groppa, capito? Perché qua arriva il camioncino dei traslochi e si butta tutto, però qua in questa camera non deve entrare nessuno, questo mi devo fare tutto io, fra, capito? Quando ho visto come stavo uscendo io avevo la possibilità di mettere l'antenna sul tetto, perché cazzo c'era questa qua che non mi voleva dare i giochi della botola, cazzo, rottura di balle, quindi per evitare di bisticciare qua e là, quindi mi ha fatto salire un amico su e l'ho piazzata, capito? Tutto lì. Se no ero con quelli di polo, antennino, più di mezzo alle balle, cazzo, a volte mi inibizzavo, inciampavo tutti i vivi di poli contro antenne, cazzo, ne ho stracciato tutto, ho detto vaffanculo, piazzo l'antenna sul petto, non me la frega niente. Sì, ma è così, è così. Lucariello che fino ha fatto? Luca, Drumito DG. Lucariello sicuramente è a Nanna, va. No, no, non è uno che ci corica presto. KK, ah, finalmente, esce a vedere, i lati sono ghiacciati. Ah, finalmente la cassa un pochino tiepida. Già non la dicono, fatti andare la chitarra radio, che mi spiaceva, però non avevo posto, fra adesso che ho organizzato tutto, un po' mi dispiace rismontare e farmi. Avevo messo l'altra base anche, bello organizzato, però devo farlo, fra. Devo farlo, perché questa volta veramente vado via da qua, venduto, quindi devo per forza bucarne tutto, devo per forza bucarne tutto, l'unico problema che avrò è tirare sui cavi perché quelle, speriamo che non si siano ingrigliati allo gorrugato, se no li perdo quei cavi, li perdo, perché non è che sto lì a rompermi le palle, taglio, li faccio scendere giù, c'è il pozzetto, poi magari aprirò il pozzetto, li tirerò su, però non è che posso stare a perdere tempo, ma 40 metri di cavo non me la futti nulla. Infatti, perfetto, si conferma, e così è, io ci ho messo la verità, so che avete messo sul coso l'RG58, però quello con la doppia calda, capito? Ho fatto una calata di quello, boh, ho giocato il biello, ho portato sul tubo, messo il catrame, cementato, piazzata bene il tubo, ho messo il telescopico da 6 metri, anda più che bene. Ehi, vabbè, come ne hai così pochi di caso, già va bene anche quello, ma no, io ho la Camilla, quello devo recuperare, poi gli spezzoni 213 non me ne ha fatti nulla, ma la Camilla me lo recupero, questa è una barca di soldi, capito, quello piego tutto e sistemo tutto, il commutatore della Meritron l'ho già attaccato lassù, me l'ho portato giù, l'ho tutto pulito con la benzina, ho tolto il grasso, l'IPL, è già dentro la scatola, tutto già ordinato. Sto già iniziando a fare un po' di pulizia, fra. Sto già iniziando, però ci vuole un po' di tempo, ci vuole un po' di tempo perché io me la giro da sola, piano piano, senza problemi, tanto per la parte della casa se ne occupano mia moglie e mia figlia, poi c'è la ditta di trasloco, quindi non me la fotti nulla, ma delle radio, antenne, cavi, tutta questa cosa me la devo occupare io, e quindi voglio già iniziare a smontare un po' di roba e mettere tutto da parte, capito? E piano piano ti come l'hai fatto, se no poi all'ultimo momento è un casino, tutto lì. Vabbè, come ti ho fatto io la cucina, cazzo, per portare la cucina qua, da Predanieta a Zanira e Noghi, 100, no, 200 euro ho pagato, 200 euro solo a portarla qua, Cazzo, si è andato bene allora? Qua a me con l'autoscala da dentro il piazzale, con l'autoscala il piano, no? Quello che appoggia praticamente, ti ricordo, l'avevamo fatto anche noi una volta, che appoggia la finestra al secondo piano, ecco perché devo liberare questa stanza, perché poi la roba che ci porta via direttamente da qua, e quella piccola è un ascensore. Non sai quanto mi hanno chiesto a me? Ah? Dentro Sassari, 2500 euro di trasloco. Un pacco di soldi. E così è. E vabbè, perché quelli hanno la scala aerea, salgono su, caricano e portano giù, capito? Non fa scale, non fa niente. E non vede denaro, e cosa ci vuoi fare? Purtroppo quando è, se bisogna farlo sei costretto. Non c'hai altre alternative e sei costretto a fare così. Tutto lì. Oggi gioco raccomento una bestia, cazzo. Tutto, non mi sono fermato un attimo, cazzo. E qua e là e guida e tira e molle campagne, salire, rifare e dare a mangiare gli animali, risalire qua e riscendere, cazzo. Poi sono salito e mi ha dimenticato i giavi, quindi sono durato a farà, mi ha lasciato il coso attaccato, l'autoclav, e sono dovuto scendere a attaccare qua, una rottura di coglione che non te ne dico. Capito cosa vuol dire. E anche questo è il problema, e anche quello è il problema. No, vabbè, ma io lì sono vicino, Ce lo sa Luca, sono vicino. Sono vicino perché c'è Eurospi, c'è la Cobec, c'è farmacia, c'è tutto. Capito? C'è c'è tutto, quindi non ce n'è problema per quello. E gli ho fatto 3 mesi di tiro, quindi glielo gioco. Però non stai sale e scendi, fra, capito, non stai sale e scendi. Quando mia figlia e mio genero sono stati, erano fuori, scendevo io a dare a mangiare i cani. Alla se fara, cioè non va bene, bisogna decidersi, o da una parte o dall'altra, basta. Io ci sono dall'87 qua, fra, penso che abbia già dato, e quindi abbiamo fatto una scelta, e già da un paio d'anni a questa parte, quindi non avevo grandi esigenze, adesso basta, mi sono rotto le palle di pagare 120 euro al mese di condominio, facciate, quello, quell'altro, cazzavo nei vari gappottini sotto Rubiano Piloti, chi si di Rubiano per il freddo, capito, quindi dobbiamo contribuire, ogni scala deve contribuire, cazzo su altri 500 euro a testa, ma le cose va vedendo, ma non ti avvii, cioè, invece buon viaggio. Cascella, mai fatto così qua? È la rottura delle balle che sono, cazzo, ogni volta che scendo sono 7 km andata e 7 km alta, e sono 14 km, cazzo, i gatti è qua, cazzo, non basta comprare roba per i gatti, e poi arrivano gatti di fuori, anche a mangiare, cioè, cazzo, ogni volta, cazzo, 15 euro a settimana di mangiare di gatti, io mi sono rotto le balle, cazzo. Sì, vabbè, anche da me vengono i gatti, però quando mi sono i cani in vura, gatti non ce ne sono, fra. Se sono dentro il recinto va bene, ma quelle due bestie il gatto se lo mangiano, non è che lo vasini andano a giugano, se lo mangiano. Filippo no, Filippo è abituato, qua ci sono i gatti, le passa vicino, manco li cerca, manco li guarda, ma che dice, sono due leoni, quelli sulla campagna sono due leoni, fra quelli gatti ce ne sono poco in giro, quando loro sono dentro il recinto qualcuno lo vede, ma quando sono fuori non venite gli atti in giro, i cirimigliani lo vanno a pezzi, capito? Sono due cani enormi, due cani giganti, due cani cattivi soprattutto, quindi non salvezzi a nessuno, né cani allo cancello o in giro cercando da mangiare, né manco gli atti bisogna. Infatti io di là, sono sceso, ho detto, cazzo, gli ho messo due ciotole piene di croccate, non viene più. Torre a farà che, cazzo, perché mi avevo dimenticato l'autoclave accesa, cazzo, vedere i bagugliati da fuori mangiando, cazzo, mangiando. Ma io cazzo mi comparavo a giro e vado a mangiare, ma vai te che misuri, che cazzo, quando mi finì qui di zero vado a mangiare gagliate dell'Africa, cazzo, venire i bagugliati a mangiare le croccate, cioè va, io che caccio al popolo c'era, cazzo, solo cacciato croccate, cazzo. Non sei così. No, fortunatamente lo zio di mio genero è macellaio, quindi da tutti i ritagli della carne, di qualsiasi tipo di carne, di pollo, di maiale, di maso, di vitello, di tutti i ritagli glieli dà, quindi lui bollisce tutto, quasi, ma ci mangiano 5 kg di carne a 10, 2 ganimi, in due, capito? 5 kg di carne al giorno le portami, cioè allucinante. Cazzo, lui può mangiare 200 grammi di crocchette alla lì, ma di cosa si muove i denti? Ma io per favore. Cazzo di Mario, guarda, gli compro quei barattoli da chilo, quelle di carne e pollo, vitello e pollo, viceversa pollo e da chilo. Bene, lui mangia allora il mezzogiorno e la sera, poi non tocca più nulla. E poi di nuovo il mezzogiorno, lo scendo la mattina e poi lo scendo la sera, capito? No. È un cane poi che non disturba, è bravo. Ma il cane va bene, gliele compro le cose perché a volte mangio anche la roba che cucino io, cioè, pennette, mangia di tutto, però le pennette ci devi mettere sempre un po' di macinato, se no te ne tocca, capito? È viziata come cane, è tutto di più. E la vai e mangia di crocchetta che vuoi. Il cucina che non ve lucia, che lucia da di chi su chi cuzzino a mangiare, non è che cazzo a ricomprare crocchette tutti i giorni, io invece gli ricompro, cazzo, non so. Mi fanno pena a me gli animali, cioè come te, a volte entro e compro cose per lui, compro cose per i gatti e via, e chi dà, lo batticati ogni settimana a 20 euro mi dici. Vabbè, ma il cane quando ce l'hai lo devi tenere a posto. No, Filippo no. Mangio una volta solo, mangio solo a pranzo all'una e mezza e basta. Poi lo porto verso le 9:30 la mattina e alle 8 la sera lo sto portando. Basta. però è un cane, ti ripeto, che non disturba, che non fa niente. Ma chi ci dovevi vicino a campagna c'è due leoni, fra. Sono due leoni, uno è un pastore del Caucaso, l'altro preso a Canario, lascia perdere. Sono due leoni, fra. Fanno paura solo a vederli, solo a vederli. Sono veramente due leoni. E poi sono sempre in coppia, mi. Sono sempre in coppia, poi mi sono affiattati, mentre ci muovi uno, più un partiraccio, e sta gran, fai a te vasi vedersi. A me aveva regalato un pitbull, coso, il figlio di Fuis, ce l'aveva sempre giù a Santa Maria, mi ha detto, c'è fra, se lo vuoi te lo regalo, ha detto, ma tranquillo, e dice, devi tenere un po' così con la museruola, perché se gente non conosce, ha detto, no, lo porta in campagna, vabbè, e l'ho portato in campagna, ho tenuto due giorni, l'ho chiamata, vieni a prendertelo perché Luciano lo vuole, cazzo, passi dallo cancello, si fende in dire in diluira, rucchi si chiamava tu già, cazzo va, si arriva il pastore, cazzo mi dice, c'è un cane, dice, mi ha sbranato due galline, ma sta scherzando, sì, cazzo, beh, ma tu cazzo comprare le galline, ha visto, pagargliele. No, ma quelli sono, non sono cani da lasciare così, no, fra, ma stai scherzando. Sono molto pericolosi, infatti quelli che c'è al mio genero stanno dentro il recinto quando ci siamo noi, capito? Grande, un bel recinto grande, dove hanno molto, molto spazio, e il mio sta fuori perché il mio è diverso, non fa assolutamente niente. Quelli, cazzo, ci passano le moto, vedono il cancello, brincano il cancello, cazzo, non è una panna della moto. Sto dicendo che Ciugani, a me non mi faceva niente perché lo conoscevo, ci aveva un'apertura di bocca, gli ho dato uno di quegli ursi di manzo, di bue, roba del genere, l'ha frantumato con i denti, laggiù, l'osso proprio l'ha pigliato con i denti, tra, cazzo, laggiù ti trova la mano, guai, lui. No, fra, quelli non sono cani da giocare. Quelli non sono cani da giocare, quelli sono cani da tenere veramente con molta attenzione, ti ripeto, perché hanno quel non so che dibuntani, e quando dibuntani è meglio che ti pucchi, è meglio che te ne vai. Filippo non è così, Filippo è un cane diverso, non è aggressivo, un po' rompicoglioni, ma comunque non è aggressivo come quelli. Ma quelle razze lì sono molto molto molto pesanti, capito? Cioè devi stare attento a che ci imbagli i baghi, se vadi da pezzi, che sia persona, che sia animale, ti c'è bideggiano, eh? Ne ha uno, un'amica di Lucia, Nadi, e c'è un pitbull di quelli puri, proprio di quei cani che facevano proprio i combattimenti, c'è un'apertura, addirittura questi cani dice che li appendono e gli aprono la bocca, non so come tipo, cosa fanno, boh, una cosa del genere. Ma c'ha una forza, è tutto muscoloso, come trova, ha preso un gatto una volta davanti a me, cata l'ha perseguitato, l'ha aggranfato, l'ha spezzato in due, cioè l'ha tagliato in due, sembrava tagliato a coltello, una cosa mai vista io, cato grumato così. Fra me l'ha giubito brinchendo i muri e curendo i araienti, mi dico i cani, ma stai scherzando? Assolutamente, sono cani molto pericolosi, non a me piacciono gli animali, però io voglio anche la sicurezza del cane, capito? E ti ripeto, quelli che a mio genere sono due cani abbastanza aggressivi, e quando siamo noi lì, no? Per evitare casini, sono chiusi nel recinto, c'è solo Filippo che gioca con i bambini, che bambino, non è più oramai, con questa pandemia, ma prima giocava, faceva, capito? Perché è buono come cane, ma lì ci sono mari, mentre invece quando non ci siamo noi, allora i cani sono sciolti. Capito? Sono sciolti. E più di una volta mi ha detto Mario, io non l'ho mai visto, più di una volta ho avuto una cagliata buca in terra, capito, qualche. Però bisogna stare molto attenti, perché ti ripeto, quelli non perdonano, il pastore del Caucaso, che è un cane 70 kg, e anche l'altro che c'ha lo stesso, siamo lì 60-70. Ci sono due vitelli, mi ego preso, non sono cagnoli da giocare. Che li riconosco già, se si chiami mani, sì che riconosco. C'era un amico mio, non so se conosci, Salvatore, quello che vende torrone nelle bancarelle che abita a Sentino, ne ha uno che sembra un leone, mai visto neocani così, ma grande, enorme. Ah, sono talmente due chissà, come te si chiamava? Heidi, Kishugani Maduro così, quello è un pastore del Caucaso, non è un pastore maremmano, quello è un pastore del Caucaso, così è me, così che ci fa mai genero, così. C'è una testa, le zampe, la zampa che entra il gabbo di Filippo, ma non te niente, è buono a me perché con me, cioè con noi sono tranquilli tutti e due, rispondono ai comandi, vieni qui, vai a cuccia, a me mi date pure la zampa, credimi qui la terra. Mi ha sollevato dritto per giocare, che altro mi ha fatto cadere, mi ha messo i piedi sopra la spalla, fra, io sono 1,70, mi ha messo i piedi sopra la spalla, gatto, mi ha tracuto a capo a terra. Cioè non ha forse allucinato quel cane, già riconosco già. Infatti una volta sono andato a casa del Salvatore che dovevo fare il forno della cucina, che si scattava a corrente e gli ho cambiato la resistenza del grill. Di questo cane mi sono grassuzzato, ho detto ma cos'è questa cosa? Tranquillo, non ti fa tranquillo, scusate che c'è un leone, è enorme, c'aveva una testa allucinata, un leone, le zampe grosse, era un bel alto, cosa mi arrivi a casa la cintola a me, pensa a due. Lo so, ma infatti ti ripeto, con quei cani non c'è da giocare, bisogna stare attenti, perché sono cani che rispondono ai comandi di un padrone solo, non è che lo vuoi già mai fare, no, io prima di ubbidire, ed erano un po' piccoli, adesso sono già grandi, ma prima di ubbidire, solo quando c'era Mario, erano, capito, lui le faceva fare tutto, anche perché è un addestratore di cani, contratto di patentino, quindi gli ha insegnato tantissime cose, Edo gli gira intorno e dice, gira, Edo gira, e tu vai a venire il gappo a gira a sciogare che ha già che batterà la giura. Oh, gli fa passare dentro dei tunnel, gli fa fare un sacco di cose, però con lui, com'è, bene, nel giorno quando mi vede nei gruvidoni, allora buono è fatto, dove stai andando? Siediti e si siedono tutti e due, ma cose così, altrimenti no, cioè se dovessero partire, a Mario solo al fischio si pisciano sotto, li chiama, corrono indietro, terra tutte e due, e si siedono sicuri che hanno per terra, a me, avanti qualche chiamato, vieni qui, la mazza che te ne varia, domani mi viene. Perché sono addestrati con lui, conosco il padrone, anche tu lì. Anche il mio se lo chiamo, come lo chiamo viene subito. Se lo chiama un altro, ma cos'è muovi, non era tutto un po' intelligente, intelligentissimo, da piccolo cazzo l'ho addestrato a fare certe cose, cazzo, allucinante, cazzo. Batti 5, ti dati 5, batti, dammi la destra, dammi la sinistra, seduta, a terra, di tutto. Lo stavo addestrando, cioè io sopra la sedia, a sedersi da lui, ha detto ma non me ne ha fatto, non ha più piano per straccarmi, cazzo, non ha fatto nulla. Mario Draghi in replica, nostra soluzione è nata. Questa catena volevo modificare il radiale, metterglieli da 10 da cosa, da un metro, però mi hanno consigliato che quell'antenna è nata così, la devo lasciare così. No, quell'antenna è nata così, già ho visto le caratteristiche, le ho anche lette. È nata così, la devi lasciare così, fra, non è che la puoi modificare, capito? Quindi la seletta così e ho futti dinni. Vabbè, però è così. Comunque fra, adesso metto a posto queste cose a casa, poi piano piano ci sentiremo. Mi dispiace molta roba da qua, la devo dare, c'è un paio di basi, quello del salone, altra roba. La devo dare perché di là sto facendo un arredamento nuovo, capito? Quindi no. Questa roba mi devo portare via solo il salotto e il tavolo con le sedie e basta. Cucina nuova, materassi nuovi, quelli grandi, camera da letto, armadio di camera di mia figlia, mamma mia come sto, per carità, e vabbè. Piano piano già ne usciremo, va. E ci ho buttato tutto, la camera da pranzo sta cambiata nuova, tutti i mobili vecchi che da via, da girampaggio, tutto, cucina nuova, cucina tutta in legno, bella, gatto, grande, enorme, ho fatto una bella cucina grande, gatto, visto dove c'era la sala quando è proprio della porta. E io c'ho ancora il tavolo con le sedie che avevamo preso da... da quello del portatore certamente, come ti chiamava? Cazzo, lo sai che sta male quello lì, sta Mimmo. Sta Mimmo, sì. Ma però aveva fatto un tavolo buono, quello allungabile, ce l'ho quello lì, quello me lo porto via, e le sedie sono un bel pesante, sono in legno, massello, quello me lo porto via. Poi la base con la credita, quella che avevo preso da coso lì, da come si chiama, da Ferroni, lo stesso, quello me lo porto via. Il salotto che l'ho cambiato l'anno scorso, quello, i divani, due divani, quelli me li porto via lo stesso. Il resto ve ne ho gambe molto bello, se si porta tutto, quello si porta via tutto, perché di là è tutto a misura, tutta roba nuova, tutta, capito? Vabbè, le camerette poi sono uguali, sia la camera da letto mia che quella di l'aria sono uguali, precise, identiche, stessi letti, stessi armadi, tutto uguale sto facendo. Non te lo trago un pezzo marrone, un pezzo gerezio, un pezzo beige, tutto un colore, tutto roba moderna, si abbiglia cura tanto. Era già previsto, fra, non volevo arrivarci, ma alla fine, cioè, non è che puoi pagare, stare qua, continuare a pagare, a pagare, a pagare, quando vai a casa se ne riventi. Ma infatti, che ho trovato in là? Ah, vai, se ti ho fatto il condominio, non esci più, cazzo, 125 euro al mese di condominio, ho fatto un pacco di soldi, so. Addirittura a me mi hanno regalato anche il televisore della Samsung. Questa signora l'hanno comprato, il televisore ce l'aveva sempre fermo, non prendeva il canale, non pigliava il vitro, l'ha già conto. Questa signora, guardi che ha riparato il televisore, se lo vuole, è 80 euro, la riparazione, ma no, se gli serve se lo prenda, glielo regalo, mi ha regalato un 50 oggetti pubblici della Samsung. Asciuga. KK, no, io qua no, qua c'ho il 50, sì, il 50 con il salone, con la campagna è il 55, Mario c'ha il 60 addirittura, lì sempre campagna, capite? Tutto qua, vabbè, la TV deve essere buona, oggi come oggi, intanto fra un po' passiamo a quello che dobbiamo passare. Quindi se c'è televisione buona, va bene, altrimenti te la devi comprare a torre nuova. Non è che cambia molto. Ascolta, fra, ti stavo dicendo una cosa, adesso mi sono meticcato, adesso te la dico. Per il vialetto, no? Perché sono già tutti così, come si chiamano? I paletti col globo eccetera, ma conviene farlo opuscolare o direttamente col salvavita l'accende a una certa ora? Col salvavita ci metti, oppure ci puoi mettere un timer temporizzato, allora si accende automaticamente. Senza qua fotocellula però, come quella che c'è qua in questo, qua nei giardini. Senza fotocellula, certo. Allora tu gli dai l'orario, ci sono i timer temporizzati, lo metti alle 17, alle 17 si spegne, poi lo metti per noi dire dalle 17 alle 20, nel punto, e si spegne in automatico. Come ce l'ho io in campagna, io ce l'ho temporizzato così, là. E se l'ho fatto mi usa la luce, gli arrivi in bocca, faccio pratico. Faccio fare così allora, va. Mi stava chiedendo appunto mio genero che è qua, che domani vengono, ci sono gli elettricisti per terminare il vialetto, a vedere cosa devono fare. Ha detto no, io infatti ho chiesto a te per vedere se era meglio una cosa o l'altra, e allora lo faccio fare così. Va bene, capa, dai, sono le 11:15, io mi allontano dalla radio, ma sono rimasto per far scaldare un po' questo DAC, per provarlo, ma come vedi, nessun difetto, tutto regolare, tutto a posto, microfono normale. Mi dispiace dargli questo microfono, io ragazzi domani il microfono gira del DAC. Oh, manco ci t'ammazzi. E esce veramente molto molto bene, qua. Mi sono messo nuovo le cuffie giusto per ascoltarmi di nuovo con il Midland, che senza antenna, vabbè, perché l'antenna l'ho passata qua, già chiude bene. Cazzo, ma c'è una radio, questo microfono allucinante, veramente bella, eh? No, esce bella, anche il segnale è buono, 920 radio super 5, buono, ottimo. Russo, qua ti ascolto benissimo. Ok, dai. Allora, vai, io mi... da poco di tempo, dopo mi trovo. Ciao, Fra, saluto la Correa e ce la riascoltare i prossimi. Ciao, Fra, grazie alle due chiacchiere, dai. Un abbraccio dell'aria da Anna e salutami a Lucia se la senti per telefono. Poi con calma ci organizziamo, Fra. Adesso l'importante è sistemarmi queste cose che devo fare, poi con calma già ci vediamo, ci facciamo l'aglio. Ok? Ciao Fra, buonanotte anche a te, saluto tutti quelli che sono in ascolto, ciao ciao. Ma tra cambiato anche da parte mia, Fra, e anche da parte di Luci. Ok, alle prossime, c'è la di ascolto, mi guardo un po' di TV e ci vuole tutto. E io altrettanto, ciao ciao ciao.